Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Se non paghi ti boccio. Lo slogan è senz'altro di impatto, sicuramente un po' provocatorio ma efficace. L'ha scelto come titolo il portale scuola.net, scuola con la K, per un'inchiesta che ha raccolto tantissime denunce di famiglie italiane che al momento dell'iscrizione dei figli a scuola, le iscrizioni si sono completate proprio negli ultimi giorni, si sono trovate di fronte ad una situazione, per così dire, non del tutto trasparente. Ci riferiamo alla richiesta di pagamento del contributo scolastico, una forma di tassa richiesta alle famiglie per sostenere l'offerta didattica e formativa di un istituto pubblico. Sappiamo bene che la scuola dell'obbligo, quindi fino ai 16 anni, il terzo anno delle superiori, è per diritto gratuita e non è quindi consentito imporre tasse o richiedere contributi aggiuntivi, per lo più obbligatori alle famiglie. Il versamento quindi è da intendersi come una quota facoltativa che certamente sarà destinata ad una buona causa, utile per la scuola, non lo mettiamo in dubbio, ma che non può tradursi in un piccolo ricatto o in una minaccia, in particolare per le famiglie che si trovano in ristrettezze economiche. In tanti casi invece testimonia questa inchiesta, ve la racconteremo, la disponibilità a versare la quota, che a volte arriva anche fino a 300 euro, diventa condizione necessaria per non vedersi rifiutata la domanda di iscrizione o, peggio ancora, per evitare una sanzione disciplinare dell'alunno che, lo sappiamo, va ad influire sulla pagella e quindi mette in discussione il risultato di tutto l'anno scolastico. Allora, da cosa dipendono queste richieste? Perché le scuole hanno queste necessità? E cosa fare se la scuola non solo non ti dice chiaramente che i contributi sono volontari, ma addirittura rifiuta l'iscrizione se questi non vengono pagati, versati? Ne parliamo stamattina a Salva Danaio. Noi vorremmo raccogliere le vostre testimonianze immediatamente. Se siete stati coinvolti in circostanze del genere, se la scuola che avete scelto per il vostro ragazzo, per il vostro figlio, per i vostri figli addirittura vi ha chiesto una condizione di questo tipo, o ci versi il contributo scolastico, che appunto nella teoria è volontario, oppure non possiamo raccogliere l'adesione e l'iscrizione del tuo ragazzo, raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Potete anche animare il dibattito su Facebook, salvadanaio-radio24. Noi stamattina ne parleremo con un bel gruppo di ospiti. Ci collegheremo solo più tardi con Daniele Grassucci, responsabile di scuola.net, che ha raccolto un centinaio di segnalazioni, dalle cui inchieste è partita anche poi l'indagine, il monitoraggio del Ministero dell'Istruzione, l'Università e Ricerca. Abbiamo con noi questa mattina proprio la dottoressa Lucrezia Stellacci, capo Dipartimento Istruzione per il MIUR. Dottoressa Stellacci, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei. E poi sentiremo un po' tutte le parti in causa. Davide Guarneri torna con noi, è presidente nazionale dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori Onlus. Guarneri, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti, dottoressa Stellacci nel nuovo incarico, saluto volentieri. Ah, molto bene, grazie, ce l'ha detto lei, perché noi non lo sapevamo che ci fosse questa novità, siamo ben contenti per tutti. E poi chiaramente sentiamo le parti in causa, i grandi accusati di questa storia, che sono le scuole, per l'appunto. Quindi Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci sente? Eccoci qua. Allora, vi ho dato tutte le coordinate per poter intervenire, perché chiaramente noi vorremmo soprattutto raccogliere le testimonianze, le denunce, se ci sono, da parte dei genitori e delle famiglie. Prima di entrare nel merito di questo dibattito, che non abbiamo alcun dubbio questa mattina sarà molto interessante, vorremmo però anche andare a monitorare l'andamento della giornata di borsa, perché siccome gli ascoltatori a volte si lamentano del fatto che quando le giornate sono molto pesanti e negative le enfatizziamo molto, quando invece sono positive non le valorizziamo adeguatamente. Allora valorizziamo questa giornata che vede Parigi e Francoforte che segnano un rialzo di 2 punti percentuali, Londra più 1,43, Milano guadagna 1,5 punti. Cosa succede? Succede che c'è questo clima di ottimismo sull'esito dello swap sul debito greco. I creditori privati stanno scegliendo, hanno ancora poche ore per farlo, se aderire o meno alla proposta del governo greco di ristrutturazione del debito, cancellando gran parte dell'investimento fatto in passato, una ristrutturazione molto articolata e molto complessa. C'è ottimismo, dicevamo, da parte del mercato, anche se fino a questo momento il tasso di adesione è intorno al 60%. Per essere considerato completamente volontario dovrebbe arrivare al 90%. Il quorum fra il 75 e il 90 in realtà complica un po' le cose anche sui creditori privati più piccoli, come abbiamo detto ieri pomeriggio a Focus Economia. Tra l'altro vi anticipo che domani ce ne occuperemo di nuovo anche a Salvadanaio, con voi ci sarà Simone Spezia, ma in ogni caso il mercato appare soddisfatto della percentuale raggiunta fino a questo momento e quindi tutti positivi gli indici, ma soprattutto spread tra BTP e Bund che non si vedeva dal giugno dello scorso anno. Siamo arrivati a 293 punti base con un rendimento del titolo decennale che è sceso a 4,75%. Questo stamattina fa ritornare anche gli acquisti sul mercato azionario, soprattutto sulle banche, anche se i migliori titoli di Milano sono Prismian più 6%, Fiat più 5%, Impregilo più 4,53%, Tenaris più 4%, Fiat Industrial più 4%, Finmeccanica più 4%, quindi molto bene il settore industriale oggi. Chi non se la passa bene invece è Enel, che perde più di 5,5 punti. Il colosso italiano è arrivato a perdere l'8% dopo aver comunicato i suoi risultati, ma soprattutto dopo aver fatto sapere che rivedrà drasticamente la politica di remunerazione agli azionisti dall'anno prossimo, quindi dividendo in calo per la società e quindi chiaramente tutti scontenti e pronti a scappare dal titolo questa mattina. Questo per ciò che riguarda la borsa, ma direi che possiamo tralasciare immediatamente la borsa perché il tema di cui parliamo oggi siamo sicuri che raccoglierà subito il consenso. Non tanto il tema quanto il fatto che lo affrontiamo appunto da parte delle famiglie italiane, parliamo appunto di questi contributi scolastici chiesti dalle scuole alle quali le famiglie si rivolgono per appunto iscrivere i propri figli. Da questa inchiesta realizzata da scuola.net abbiamo appreso appunto che è una denuncia che per la verità è stata divulgata da un bel po', ma pare che ultimamente la protesta sia montata ulteriormente perché appunto si sono chiuse proprio di recente le iscrizioni alle scuole superiori. Appunto sembra che le scuole condizionino la possibilità di far iscrivere un ragazzo alla scuola stessa in relazione al pagamento appunto di questo contributo scolastico. Voglio sentire subito i presidi. Giorgio Rembado, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ci racconta un po' come avete accolto anche questa denuncia. È vero che le scuole non permettono addirittura l'iscrizione dei ragazzi se le famiglie contestualmente non versano questo contributo scolastico che nella teoria è volontario ma di fatto viene reso obbligatorio se condiziona addirittura l'iscrizione? Allora, intanto facciamo un po' di chiarezza, cominciamo da qui. A me non risultano informazioni di questo tipo e devo dire che quindi credo che sia molto opportuno che evitiamo degli equivoci. Il contributo di cui stiamo parlando, che peraltro esiste nell'ambito del sistema scolastico da qualche decennio, è un contributo che è sempre stato e deve restare volontario, è determinato a monte da parte del consiglio di istituto, viene proposto in sede di iscrizione alle famiglie e quelle che vogliono contribuiscono per la loro parte, quindi nessun ricatto, nessun rifiuto all'iscrizione, meno che meno nessuna sanzione nei confronti degli studenti le cui famiglie non hanno versato il contributo determinato dal consiglio di istituto. Vediamo però quale può essere, io passerei quale può essere stata allora la deriva enfatizzata in questa maniera su questo sito che è scuola.net, poi il legittimo rappresentante ci racconterà come sono andate le cose, presidente Rembado, ecco. Sì. E quindi da questo punto di vista non posso sostituirmi a lui perché... No, certo, ma poi abbiamo anche fatti, i genitori, anche Guarneri avrà un osservatorio senza... Ci li racconterà. Mm. E io credo che appunto se ci fossero delle situazioni anomale dovrebbero essere prese in considerazione caso per caso, con nome e cognome, perché ovviamente non giova a nessuno fare di ogni erba un fascio, ammesso e non concesso che ci siano istituti che si sono comportati in questo modo. Ricordiamoci che nell'ambito del nostro sistema scolastico abbiamo 10.000 scuole e quindi io ora non me la sento di dire che non ci possa essere una, due, tre scuole che si sono comportate in modo sbagliato, però ovviamente vanno prese in considerazione quelle, senza arrivare a dire che le scuole italiane chiedono un contributo non più volontario ma obbligatorio eccetera eccetera, è quello che ho sentito dire in apertura della nostra conversazione questa mattina. Io vorrei spostare l'attenzione però anche sul senso, sul significato e sull'utilizzo del contributo volontario, perché è una cosa importante dal punto di vista concettuale che le famiglie devono sapere e conoscere. È utilizzato per il miglioramento dell'offerta formativa, e cioè per il miglioramento delle attrezzature, delle strumentazioni, quando fosse sufficiente dei laboratori che possono servire alla singola scuola per dare un servizio scolastico più qualificato. Ovviamente non deve essere sostituito, lo dico subito per chiarezza, in modo netto, al dovere dello Stato di corrispondere alle risorse necessarie alla sopravvivenza e al regolare funzionamento del singolo istituto. Poi le farò sentire la dottoressa Stellucci, che ci dice che da quest'anno in particolar modo i contributi pubblici sono diventati nella loro erogazione assolutamente regolari, e questo rende ancora del tutto non giustificata appunto la richiesta che le scuole fanno di questo contributo facoltativo. Detto questo, se poi viene giustificato e le famiglie sono tranquille e soddisfatte, non è detto che la scuola appunto non possa fare questa richiesta. Vi racconto un paio di testimonianze raccolte da scuola.net, poi lo stesso Grassucci ce ne racconterà probabilmente anche altre. In una scuola in provincia di Ascoli Piceno è stata diffusa il 20 febbraio una circolare in cui si diceva che la mancata presentazione entro il termine appunto del 20 febbraio del pagamento di questo contributo sarà considerata, cioè quindi una circolare scritta, un'infrazione disciplinare a tutti gli effetti, con ripercussioni sulla valutazione del comportamento e quindi sulla media dei voti e sull'ammissione alla classe successiva dello studente appunto che non paga, nero su bianco. Per cui ecco, saranno anche delle eccezioni, ma anche se questa fosse l'unica eccezione di cui siamo a conoscenza, è comunque estremamente pesante. Volevo sentire i genitori. Davide Guarneri, cosa ne pensate di queste testimonianze raccolte da questo sito, che peraltro è animato da un gruppo di ragazzi molto giovani? Qual è la percezione dei genitori? Voi in associazione avete ricevuto delle denunce di questo tipo? Sì, noi riceviamo segnalazioni di questo tipo da alcuni anni. Questa evidentemente è molto grave, non c'è dubbio. In altri casi più lievi si è scritto magari alla famiglia, si è scritto allo studente dicendo convinci i tuoi genitori a versare il contributo e così via. In questo istante sono davanti ad un computer, a caso da un motore di ricerca, sono entrato in una scuola e parla per esempio di tassa di istituto di euro 68,50, alla quale si aggiunge tassa di frequenza per lo Stato di euro 15,13 e di iscrizione di euro 6,04. Quindi arriviamo a un centinaio. Ecco, e vorrei proprio ricordare che le tasse sono fissate dallo Stato, non certamente dalla scuola. Quindi già dovrebbe chiamarsi in maniera diversa, ecco. Anche almeno chiamarle correttamente. Le tasse sono dovute e si devono pagare, ed è giusto che si paghino. E il contributo per legge, come già si ricordava prima, è un contributo volontario, e ricordo anche che ai sensi della legge 40/2007 è persino detraibile per i genitori, purché sia versato secondo le condizioni, quindi finalizzato, quindi vincolato all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Invece qualche volta, non so, questi contributi vengono richiesti poi non giustificati magari da un'iniziativa specifica da parte della scuola, che ne risponde così alle famiglie che li versano. I genitori penso che responsabilmente e volentieri partecipano alla spesa della scuola se il bilancio è trasparente e se i soldi che le famiglie danno come contributo, ripeto, volontario, quindi sono evidentemente utilizzati per queste finalità, quindi non vanno a pagare il supplente, per capirci, né le spese ordinarie della scuola. Quindi già la trasparenza, la chiarezza dei bilanci, anche perché sarebbe pure grave, nel senso che poi immaginiamo che appunto questo contributo venisse richiesto perché guardate, avrò bisogno in avvio d'anno scolastico sicuramente di questi supplenti perché ci sono degli insegnanti da sostituire, non so come fare, per cui sappiate già che vi chiedo questi soldi per questo, e questo appunto non dovrebbe accadere perché c'è il pubblico che paga per questo. Io vi interrompo perché ci dobbiamo fermare, però magari chiedo già una piccola anticipazione del suo intervento a Federico da Roma, che mi pare molto significativo. Federico, buongiorno. Federico? Buongiorno, mi metto levo il Bluetooth perché mi accosto, sono in macchina. Bravissimo. Il contributo scolastico della discordia questa mattina, facoltativo o obbligatorio? Le denunce continuano a susseguirsi, non sono solo quelle che arrivano sul portale scuola.net. Peraltro abbiamo raggiunto il responsabile Daniele Grassucci, che saluto. Grassucci, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Abbiamo aggiunto, Daniele, le testimonianze raccolte da voi, molte altre che arrivano ovviamente anche ai microfoni di Salva Danaio, all'800 24 00 24, ma anche al 349 238 6666. Vi leggo qualche messaggio. Io ho pagato 120 euro di contributo facoltativo, ci scrive Federico da Nerviano, per iscrivere mia figlia alla materna. Ho dovuto pagare, altrimenti non poteva essere iscritta. E così anche una sua amica presso un'altra scuola. Questa denuncia arriva da Napoli, da Franco. Silvia a Lecco, tutte le scuole lo pretendono. E poi vi leggo quest'ultimo, che mi pare quello un po' più di messaggio discutibile nei termini che ovviamente l'ascoltatore ci pone, in termini di atteggiamento tenuto dalla scuola. Sarà anche non obbligatorio, ma mio figlio, gli hanno dato il bollettino da pagare a febbraio, dopo 20 giorni sono entrati in classe durante la lezione e davanti a tutti gli hanno fatto osservare appunto che non aveva ancora pagato. La cifra era di 150 euro per l'anno prossimo, non per quelle in corso. E quindi anche la pubblica vergogna rispetto ad un pagamento non effettuato. Vabbè, insomma, le derive sono tante. Daniele Grassucci, allora, visto che praticamente tutto questo dibattito si è scatenato anche per le denunce che avete raccolto, io ne ho raccontata anche qualcuna, poi andando a curiosare sul vostro sito e su un filmato che avete pubblicato, ho sentito anche dell'altra storia di una mamma che non aveva la consegna regolare della pagella perché il contributo non l'aveva pagato ed è dovuta ricorrere addirittura ai carabinieri. Siccome giustamente il preside Rembado, che ospite con noi questa mattina, dice sono delle eccezioni che vanno naturalmente condannate, ma noi casi ci sembrano veramente tanti. Esiste una statistica di quanti ne state raccogliendo? Beh, possiamo sicuramente parlare della nostra osservazione, del nostro punto di vista. Noi siamo partiti su questa attività di monitoraggio da circa 2 anni, infatti il servizio a cui si fa riferimento è un servizio del TG3 del 2010, quindi il fenomeno non è nuovo. Quello che noi possiamo determinare dal numero di segnalazioni che abbiamo è che c'è un trend di crescita, di aumento. Cioè, quest'anno abbiamo monitorato 100 casi di scuole che fanno pagare il contributo senza indicarne la natura volontaria. E una certa percentuale di queste, stiamo parlando del 20-25%, addirittura minaccia di non iscrivere gli studenti che non siano in regola col pagamento, in maniera più o meno velata. Però ecco, nel momento in cui si scrive che in un documento ufficiale che per essere iscritti bisogna soddisfare certi adempimenti, tra cui il pagamento del contributo, è chiaro che negli occhi di chi legge si capisce che il contributo va pagato, appunto, senza quindi insomma citare il discorso. Certo, Daniele, vi siete anche, allora, detto che naturalmente poi lo discuteremo anche col Ministero questo aspetto, che nessuno ha da discutere sul fatto che la scuola chieda questo contributo se lo giustifica naturalmente con un determinato investimento. Magari quella scuola ha bisogno, non lo so, di dotarsi di certe apparecchiature tecnologiche, di nuovi computer per la scuola, perché oggi i ragazzi hanno tante necessità, appunto. A parte questo, avete fatto un monitoraggio anche poi di effettivamente come questi contributi vengono utilizzati dalle scuole che lo rendono praticamente obbligatorio? Ma questo, diciamo, è più qualcosa difficile che lasciamo fare più ai dirigenti scolastici. E quindi io, parlando con i dirigenti scolastici, ecco, loro ci dicono che questi contributi spesso vengono utilizzati per il funzionamento perché i fondi ministeriali, ecco, non sono sufficienti. Però queste sono, ecco, delle voci che noi abbiamo raccolto, quindi ecco, sarebbe poi da verificare effettivamente con i dirigenti scolastici. Quello che noi possiamo dire, e secondo me questo caratterizza la gravità del fenomeno, è che laddove non c'è chiarezza nella comunicazione, le famiglie subiscono una doppia beffa, cioè devono pagare il contributo che sarebbe volontario e soprattutto non vengono informate che questo contributo in realtà è detraibile, perché ricordiamo, ai sensi della legge Bersani, tutte le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta didattico formativa, all'edilizia scolastica e all'innovazione sono detraibili nella misura del 19%. Quando alle famiglie non si dà un'indicazione corretta sulla causale del contributo, cioè che è un'erogazione liberale, non vengono nemmeno informate di questa possibilità e quindi non ci pensano, naturalmente. Bene. Benissimo, Daniele, allora ti chiedo ancora qualche minuto di pazienza se vuoi rimanere con noi. Noi continuiamo appunto anche a sentire i nostri ospiti. Prima di sentire la dottoressa Stellacci del Ministero dell'Istruzione, appunto, a cui ho fatto mettere insieme questo mosaico per completarlo e quindi commentarlo al meglio, ci aggiungerei anche qualche testimonianza in diretta dei nostri ascoltatori. Federico da Roma, si è messo a posto con l'auto, tranquillo? Assolutamente, sono parcheggiato. Ci racconti un po' che cosa è successo? Guardi, io sono genitore di quattro ragazzi e devo dire che a conforto di quello che diceva il vostro ospite, sono 2 anni che in tutte le scuole, dalla materna alle elementari, quest'anno anche con le superiori, mi sono trovato di fronte allo stesso identico atteggiamento di poca trasparenza e anche un pochino di rigidità rispetto alla necessità di versare questo contributo. E senza ripetere quello che già ho sentito, che è stato detto in maniera molto chiara, io volevo anche aggiungere che secondo me è importante anche specificare che nel contributo che viene chiesto spesso ai genitori, la parte del contributo volontario è una componente del bollettino nel quale poi sono inseriti per esempio l'assicurazione, sono inseriti quello che si chiama per esempio contributo di solidarietà per le famiglie disagiate, il contributo per la pagella, e che quindi, a parte che non so se queste anche sono detraibili, e che comunque secondo me sarebbe molto più trasparente separarli, quelli che sono dei costi della scuola, da quello che è un contributo volontario. Certo, lei Federico, quanto le costa tutto questo scherzo? Guardi, io le dico che quest'anno per il quarto ginnasio del mio primogenito mi hanno chiesto 120 euro. Per i 3 più piccoli che vanno alle medie e alle elementari circa altri 400. Quindi insomma alla fine mi costa 550-570 euro più tutte le spese che tutti conosciamo, certo, per la infatti, scuola. Infatti con l'inizio della scuola e quant'altro. E aggiungo che l'anno scorso, dopo aver protestato con la segreteria perché avevano detto che non potevano iscrivere mio figlio se non avessi pagato il bollettino, e dopo una lunga discussione con la dirigente, la quale alla fine mi ha detto che ovviamente avrei potuto pagare quello che potevo, quest'anno all'iscrizione per il secondo anno del mio primogenito, di nuovo la segreteria, di fronte alla presentazione di un bollettino di 50 euro se non sbaglio rispetto ai 120 che chiedevano, hanno chiesto a mio figlio pubblicamente, poi ho tenuto davanti ad altri compagni di classe, chiedere a papà di pagare il resto, casomai ratizzandolo, cioè, atteggiamenti che io reputo veramente pessimi. Federico, io sono d'accordo con lei, la ringrazio, sento rapidamente anche Raffaele da Cantù, poi vado alla dottoressa Stellacci del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Raffaele, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, il mio intervento era semplicemente per testimoniare che io non so il signore di prima chi era, perché ho acceso la radio salendo in auto poco fa, volevo solo testimoniare che succede in tutte le scuole questa cosa. Io ho un figlio di 17 anni, è in quarta superiore, iscrizione alla quinta superiore, le voglio anche far capire l'atteggiamento che abbiamo noi genitori, non ce lo poniamo più nemmeno il problema, lo paghiamo e basta. Ah sì, certo, perché poi lì che cosa fai? E questa è la cosa che forse a me deprime di più. Non è vero che è volontario, l'abbiamo interpretata così. Un caso solo nella classe di mio figlio, una ragazza dice non posso pagarlo. Lo devi pagare per forza, se no non ti iscriviamo, perché comunque i bollettini, la ricevuta dei bollettini va legata all'iscrizione stessa, certo. E non te la ritirano fino a quando non c'è il bollettino pagato, la cedolina del versamento. Non sono casi isolati, perché io ho 2 figli grandi e hanno dovuto pagare tutti sempre e da quando vanno a scuola. Direi che forse varrebbe la pena dire non è più un contributo, ma è una tassa, punto, va pagata per forza. Raffaele, grazie molte, buona giornata, e vado subito alla dottoressa Stellacci, che da quello che mi hanno detto anche i colleghi di scuola.net, so che il Ministero si è sempre dimostrato molto attento e sensibile sull'argomento, e voi avete sempre valutato con grande attenzione i dossier con tutte le segnalazioni di irregolarità giunte alla redazione di scuola.net, ma anche in altre sedi. Allora, da dove vuole cominciare a rispetto a tutto quello che abbiamo sentito fino a questo momento? Ci sarebbe tanto da dire. Comincio dall'aggancio che mi ha dato lei. Il Ministero è sempre stato molto sensibile a questi problemi, infatti ha più volte richiamato gli uffici scolastici regionali, che sono gli organi periferici del Ministero, dove ci sono direttori generali, a che facessero molta attenzione a questo fenomeno, che si è incrementato negli ultimi anni. È vero, io ritrovo tutte le denunce che sono state fatte dai genitori. Io sono soltanto da un mese capo dipartimento per l'istruzione al Ministero, fino al mese scorso ero direttore regionale della Puglia e quindi posso guardare il fenomeno da entrambe le parti. Noi come Puglia ci siamo molto interessati a questo fenomeno, abbiamo fatto delle circolari continue proprio per segnare le differenze. Le tasse sono tasse fissate dallo Stato là dove si pagano, perché l'istruzione obbligatoria è gratuita, proprio perché è obbligatoria per 10 anni, quindi fino a 16 anni, fino al biennio degli istituti superiori non ci sono tasse. Ci sono però rimborsi di spese anticipate oppure comunque che la scuola deve affrontare per i ragazzi, che sono l'assicurazione per gli infortuni e le responsabilità civili degli alunni, i libretti delle assenze, anche le gite scolastiche, insomma attività che non fanno parte dell'ordinario curriculum. E poi, scusi, il libretto anche che ogni ragazzo ha in dotazione, dove si deve compilare se si verifica un'assenza, cioè quello è un, io non me lo ricordo, non mi ricordo di averlo mai pagato quando andavo a scuola. Si deve pagare adesso? No, si è sempre pagato. Questi sono sempre pagati. Addirittura io magari sono andata a scuola nel Medioevo, adesso lo chiedo ai miei collaboratori Io sono stata a scuola in Medioevo e mi ricordo che lo pagavo. Quindi erano pochissime lire. Sì, adesso... Laura Fagimmi dice di sì, che lei pagava in Veneto il libretto. Vabbè, ma probabilmente non mi ricordavo io. Ma è possibile anche che la mia scuola non me lo facesse pagare? Che assorbissero loro. Può darsi. Ecco, mentre c'era una competizione prima a non far pagare, oggi mi sembra che ci sia una competizione a far pagare. Ma è colpa vostra, dottoressa Stellacci, perché non erogate i finanziamenti pubblici alle scuole, quindi loro non fanno in tempo ad assolvere a loro tutti impegni finanziari, per cui devono chiedere questo intervento sostitutivo alle famiglie? La vogliamo mettere in questi termini? No, non è proprio, non la possiamo neanche mettere in questi termini. C'è stato un momento, un particolare momento circa 3 anni fa, in cui ci sono stati dei cambiamenti nel bilancio, nelle modalità di assegnazione dei fondi alle scuole, per cui c'è stato un po' di sconcerto da parte delle scuole, che si trovavano ad affrontare spese ordinarie e non avevano i soldi per affrontarle, avevano cassa zero. Quindi c'è stato un momento particolare e forse in quel momento le scuole hanno chiesto, hanno cominciato a chiedere o comunque hanno cominciato a chiedere contributi senza giustificarli, perché forse i contributi ci sono sempre stati, perché un ampliamento dell'offerta formativa giustifica sempre una spesa a domanda individuale, insomma. Invece in questo momento di sconcerto qualche scuola si è attrezzata per chiedere, per poter fronteggiare delle spese che non andavano assolutamente pagate dalle famiglie. Questo avrebbe comportato però una restituzione quando poi il Ministero ha dato i fondi. Qui bisognerebbe vedere poi se questa restituzione si è verificata. Poi ci dobbiamo fermare, suggerimenti per chi è in viaggio, avrò giusto il tempo nell'ultima parte di Salvadanaio di rifare un giro di chiacchierata appunto con tutti gli ospiti. Quello che ci interessa capire a questo punto è che cosa ne pensa il Ministero del fatto che però la erogazione, il pagamento di questo contributo condiziona l'iscrizione a scuola, perché questo non ci sembra assolutamente corretto, e se questa invece è la prassi che si è instaurata in molte scuole italiane, questa è sicuramente da controllare e monitorare con grande attenzione, dottoressa Stellacci, almeno secondo il nostro percepito. Rapidamente Carlo dalla provincia di Monza e Brianza, che è un rappresentante di classe, ma ha un punto di osservazione abbastanza interessante, lo vorrei sentire, perché dice comunque questo contributo è lecito, ma nella sua scuola che cosa serve, Carlo? E soprattutto le risulta che la scuola dica no, guarda, se tu non lo paghi non ti iscrivo il tuo ragazzo, il tuo figlio? Buongiorno, no, guardi, non mi risulta che nella scuola dicano questo, quindi il contributo volontario è sostanzialmente volontario, non vengono fatte ritorsioni o pressioni particolari. L'unica cosa che io volevo chiedere è sia sul contributo volontario, ma non tanto su quello, ma quanto sul contributo per l'assicurazione, perché il contributo sull'assicurazione sembra invece che sia una cosa dovuta. Noi come rappresentanti di classe ci siamo organizzati per evitare che tutti i genitori andassero fare il versamento e moltiplicare così i costi dei bollettini postali, che moltiplicato per centinaia di famiglie fa una cifra considerevole. Quindi avete un po' negoziato con una compagnia per fare una polizza collettiva? No, su questo no, più che altro ci ritiriamo noi i soldi e poi abbiamo all'interno della nostra associazione, il nostro comitato, abbiamo il nostro tesoriere che va in banca e fa il versamento, quindi anziché fare centinaia di versamenti se ne fa uno. Vabbè, a parte l'assicurazione, Carlo, il cosiddetto contributo volontario nella sua scuola come viene utilizzato? Guardi, non facendo parte del consiglio d'istituto non so esattamente come le spese vengano poi divise, quindi sotto questo punto di vista qua bisognerà fare trasparenza. La cosa però che a me premeva chiedere a voi e ai vostri esperti è se il contributo sull'assicurazione, perché ci sono due contributi ben distinti, il contributo volontario è anonimo, noi lo raccogliamo tra i nostri genitori e senza dire quant'è l'importo, quanto abbiamo raccolto, lo versiamo. Mentre invece per quanto riguarda l'assicurazione, a noi viene chiesto di riferire chi lo ha versato e chi non lo ha versato. Visto che beh, me certo, lì ne va una tutela poi individuale evidentemente dello studente, che se capita in qualche infortunio, in qualche incidente, chiaramente forse per quel motivo bisogna, come dire, rendere molto chiaro questo tipo di rapporto. Carlo, devo salutarla perché purtroppo solo 5 minuti, vorrei sentire di nuovo tutti, ma non ce la farò mai prima dei saluti. Preside Rembado, visto che praticamente l'ho sentita all'inizio, le ho fatto raccogliere ancora un po' di materiale per poterle permettere una replica anche rispetto a tutto quello che ha sentito e questa grande messa in stato d'accusa, mi passi il termine, molto forte, non va neanche bene, appunto, della scuola, perché a quanto pare comunque questi contributi le chiedono tutti, non ci sono solo delle eccezioni, anche nei termini, come ha sentito. Questo non vorrei che ci fosse stato un fraintendimento. Io non ho detto che non li chiedono tutti, sì. Ho detto che non si può ritenere e sostenere che tutti lo facciano passare per un contributo obbligatorio, che è diverso. Il contributo volontario, purché resti tale, come è stato detto da alcuni molto opportunamente, nell'ambito di una completa trasparenza anche della finalizzazione e della destinazione d'uso, e con il massimo di consapevolezza da parte dei genitori, è un contributo che tutte le scuole chiedono, su questo non ci sono dubbi. È un problema probabilmente di comunicazione che è importante affinare e che deve passare sempre con maggiore chiarezza da parte di tutte le scuole. Ma le famiglie che non possono pagarlo, preside, come devono comportarsi? Le famiglie che non possono pagarlo, adesso ammettendo c'è chi fa il furbo, non possono. Ma mi faccia dire, quelle che non possono, ma anche quelle che non vogliono, ecco, perché non è detto che. Esatto, può anche essere una questione di principio, la scuola è pubblica, perché ti devo dare questo? Non c'è una unica motivazione, ce ne sono almeno due e non so se bastano. Comunque, quelle che non possono o non vogliono pagarlo, ovviamente non sono tenute a pagarlo, su questo non c'è dubbio, e va detto in trasmissione, questo è stato molto opportuno farlo, ma anche nell'ambito delle singole scuole con il massimo di chiarezza possibile. Mi faccia però dire una cosa. Il problema dei contributi è molto antico, come dicevo già nel primo intervento, non lo so ripetere. C'è stata, questo è vero, un'acutizzazione del problema, perché alcuni anni or sono addirittura si è arrivati da parte del Ministero a dare 0 euro di risorse per il finanziamento delle scuole, cosa che era evidentemente inverosimile, che una scuola potesse andare avanti al di là degli stipendi, non parlo di quello ovviamente, senza avere alcuna risorsa da parte del Ministero, ovviamente è una cosa che da sola si capisce che è irrazionale ed assurda. Aggiungo che ancora oggi le scuole vantano dei crediti da parte del Ministero nella misura di 700 milioni di arretrati per supplenze e per esami di Stato almeno dal 2004 ad oggi. E faccio rispondere dal Ministero, Presidente Rembado, perché mi manca un minuto e mezzo, poi devo salutare. Dottoressa Stellacci. Allora, innanzitutto il Ministero ovviamente ritiene che il contributo sia assolutamente volontario, che non possa condizionare alcun momento del percorso di studi dei ragazzi, nell'iscrizione, nella valutazione, in nessun caso, e che deve essere trasparente. Lo ribadiremo con una circolare che sta partendo da questo Ministero chiederemo ai direttori regionali di fare un monitoraggio veramente attento e interattivo, cioè noi vogliamo capire quali sono le scuole che ancora insistono in questo, deve esserci trasparenza perfetta sia nell'imputazione quando si chiede il contributo, a cosa serve questo contributo, che nella rendicontazione quando si fa il bilancio consuntivo. Il Consiglio d'Istituto deve poter controllare a che cosa, dove siano andati i soldi dati dai genitori. Dottoressa Stellacci, le dico solamente che Giorgio dalla provincia di Treviso, che non riesco a far intervenire, ci voleva raccontare che ha fatto il presidente del Consiglio d'Istituto, ha chiesto una relazione sui contributi volontari per capire come venissero utilizzati e gestiti questi soldi, nessuno ha mai risposto. Chiusa parentesi, la lascio concludere. Dovremo fare molta attenzione, perché realmente in questo momento di crisi le famiglie non possono sottoporsi a spese impreviste, relativamente ai finanziamenti del Ministero dico che i finanziamenti si sono regolarizzati, contrariamente a quanto precisato dal Presidente Rembado, e che stanno complessivamente aumentando, perché stanno diminuendo e razionalizzandosi altre spese non necessarie. E speriamo che tutto questo vada a beneficio delle famiglie, che hanno tutto il diritto di mandare i figli nelle scuole che vogliono. Allora, non riesco a far concludere Davide Guarneri, genitori ci tenevo molto, ma tanto ogni tanto lo disturbo per le nostre trasmissioni, ci ritorneremo. E ringrazio anche Daniele Grassucci per tutto il lavoro che ha fatto con scuola.net. Continuate a segnalarci i vostri casi, noi li gireremo a tutte le persone che sono intervenute questa mattina. Grazie, buona giornata.